Blue Time Live. Blue Time. Live. Amici di Blue Time Live, buona serata a tutti, benvenuti, queste sono le frequenze di Blue Radio Veneto, io sono Flavio Bilato, insieme a me Maurizio Calzavara, buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, oggi martedì 15 ottobre del 2013, dovevamo avere questo appuntamento un po' avanti, anzi alla fine di agosto, causa problemi tecnici, abbiamo deciso insieme al gruppo di spostare l'evento ed eccolo qua, finalmente, sperando che il 15 come il 13 possa portare fortuna, diamo il benvenuto a un gruppo che ci viene a trovare da Monza, in provincia di si dice Monza Brianza adesso. Monza Brianza, sì. Grazie, stavo per dire in provincia di Milano. Una volta, ma non si sa mai, potrebbe anche ritornare in provincia di Milano, non è detto. E quindi diamo il benvenuto ai Quarzo Madera, buonasera. Grazie, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera, allora salutiamo Davide, Tony e Laura che sono venuti a trovarci appunto per la presentazione del loro ultimo lavoro che si intitola L'Impatto. Allora Davide, forse non te l'avrà mai chiesto nessuno, ma come mai tra i tanti nomi che si potevano scegliere per una band è venuto questo nome alquanto originale e interessante, con qualcosa di scientifico, Quarzo Madera? Beh, è nato principalmente per il mio interesse alla mineralogia di qualche anno fa. Il quarzo Madera è praticamente una varietà di quarzo, una delle tantissime varietà di quarzo, in particolare del quarzo citrino, e viene un po' considerata come la cristalloterapia, quindi quella scienza che aiuta, diciamo, le persone che ne vogliono usufruire attraverso la cura dei cristalli. E in questo ramo specifico rappresenta la pietra del risveglio, e quindi abbiamo voluto un po' sceglierlo anche con il nome del gruppo, proprio come nome del gruppo, per evidenziare questa caratteristica. Perché è una leggenda che dice che questa pietra risveglierebbe l'anima addormentata e con il colore giallo amplificherebbe la forza della luce. È esattamente così, sì, sì, questo sarebbe il nostro intento. Speriamo di farlo di farlo ancora per qualche tempo, certo. Allora, Quarzo Madera, L'Impatto, musica tutta da sentire e da ascoltare all'interno di quello che viene definito un concept album, Davide, se sei d'accordo. Sì, magari non inteso come lo si intendeva negli anni 70, cioè con delle suite con molte ripetizioni all'interno dell'album stesso. Però a suo modo anche questo è un concept album, perché ha delle caratteristiche precise, anche guardando la copertina ad esempio è abbastanza emblematica sotto questo aspetto, perché l'impatto sarebbe l'impatto dell'essere umano con la vita, dell'essere vivente con la vita, e infatti c'è un embrione diviso a metà strada tra la volta celeste e la metropoli, quindi la vita che andrà a affrontare, la sua probabile provenienza e la vita che andrà a affrontare. I critici hanno scritto, noi ci siamo documentati un po' di pagine, i critici hanno scritto New Way ripensata. Perché Davide, secondo te, New Way ripensata? Dai classic rock alla New Way ripensata. È brutto dare un'etichetta, perché qualcuno l'ha scritto e io voglio capire dalla band perché secondo qualcuno l'ha scritto, New Way ripensata. Sì, bisognerebbe chiederlo ai critici. Esattamente. Sì. Perché in realtà sì, poi quando si concepiscono le cose, quando si fanno le cose, le si fanno principalmente sia col cuore che col cervello, e quindi è difficile anche catalogarsi, cioè già è difficile farsi affibbiare delle etichette. È brutto catalogarsi, è brutto. Esatto, sì, non... Però noi fondamentalmente sì, ci riteniamo un gruppo rock. In questo album in particolare abbiamo inserito una buona dose di elettronica. E quindi forse per New Way per quello, allora. Secondo me sì, è fondamentalmente per questo che alcuni ci hanno definito come New Way ripensata. In realtà è rock, cioè l'album è simile ai precedenti, però con un'iniezione di elettronica che potrebbe anche richiamare la wave, anche se le nostre coordinate musicali forse richiamano più agli anni 70 e agli anni 90, forse c'è un qualcosina un po' più di grunge, qualcosina un po' più di rock anni 70. Sì, stiamo già parlando a cose fatte, in realtà i nostri ascoltatori vogliono sentire la musica, perché adesso la stiamo commentando, l'abbiamo già inserita all'interno di una nicchia particolare. E direi però, per tornare a parlare della vostra musica, della musica dei Quarzo Modera, di ascoltare proprio un pezzo dall'impatto, questo nuovo lavoro, con questo brano che si intitola Le cose che non trovi. Eccolo qua. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Thank you. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato questo primo pezzo dall'impatto, loro sono i Quarzo Madera, il pezzo si intitola Le cose che non trovi, è un po' come rovistare nel cassetto della propria esistenza cercando ricordi che non ricordi in un certo senso. Sì. Quindi salutiamo ancora Davide, Tony e Laura che sono venuti a trovarci e poi li sentiremo anche in espressione acustica, visto che ricordiamo ai nostri ascoltatori che Blue Time Live appunto serve per ascoltare della buona musica sia proposta dal CD di nuova programmazione sia con alcune versioni acustiche che gli ospiti della serata ci vogliono regalare. Poi naturalmente questa trasmissione viene inserita all'interno del nostro archivio sonoro, chiamati anche comunemente podcast, e quindi all'interno della pagina, della nostra pagina bluradioveneto.it, cliccando all'interno della pagina riservata appunto alla programmazione di questa sera, quindi di Quarzo Madera, si potrà poi andare, oltre che ad ascoltare la diretta in questa serata, anche a rivivere le emozioni di questa serata, quindi cliccando e ascoltando, scaricando ed ascoltando il tutto. E poi naturalmente assieme a questo link ci sarà anche il link per quelle che sono alcune foto che scatteremo sempre in questa serata per documentare l'evento. Ma torniamo alle cose che non trovi, Davide. Sì. Sì, come dicevi tu, sono le cose che appartengono al nostro passato che vorremmo in qualche modo, che vogliamo in qualche modo rivivere, ma non è inteso solo in questo senso, anche le cose che non capiamo semplicemente. Nel senso che nel corso della nostra vita ci poniamo tantissime domande, alcune più concrete, alcune più astratte, e le cose che non trovi parla proprio di questo. È un pezzo tra melodia e un riff, quando si sente all'inizio un riff fa sempre bene alla salute, noi rockettari dà una certa scossa. Sì. C'è un momento di melodia, c'è un momento di ritornello, perché deve essere un singolo, tra virgolette, chiaramente, ma c'è il riff tuo, caro Davide, quindi si sente. Sì, è un po' il nostro intento, quello di fare parecchi riff, nel senso chitarristico, il nostro è un gruppo prevalentemente chitarristico, anche se... Se come si diceva prima, nell'ultimo ci sono molti inserti di elettronica, per cui il riff lo riteniamo fondamentale per la nostra musica. Cioè, praticamente dal percorso del disco, praticamente. Sì, sì. Da sì. Un certo che. Dopo, chiaramente, ci sono le variazioni, le sfumature, però l'idea del riff della chitarra, è lo strumento base, portante. Quello c'è sempre e ci sarà sempre. Una delle sfumature che vale la pena proprio ricordare all'interno di questo disco, che proprio prende l'orecchio, soprattutto a un ascolto attento, magari anche meglio in cuffia, quel motivetto alternato tra chitarra e quella... Clavinet, si chiama clavinet. E quindi l'inserimento dello stesso all'interno del pezzo. Sì, era anche quella una tastiera molto usata negli anni 70, un tipo di synth molto usato negli anni 70, lo si usa anche molto nel reggae, ad esempio Bob Marley ne ha fatto ampio uso nella sua musica, è un tipo, un suono particolare di synth, uno tra i primi usati. Bene, è una cosa quindi positiva. Abbiamo svelato anche uno dei segreti all'interno del pezzo. Allora sono le 21 e 15 minuti primi, è giunto il momento di ascoltare un primo pezzo in una versione acustica, visto che abbiamo Davide alla chitarra, Tony alla batteria, seppur gli manca qualche pezzo, però e ci promette che la fa suonare con le spazzole, e poi ancora Laura ai cori. Allora il primo pezzo che ci fate ascoltare, Davide? Allora, il primo pezzo è tratto dal nostro album precedente, che è Orbite, e si intitola Sullo sfondo. Benissimo, ce lo ascoltiamo qui in diretta a Blue Radio Veneto. Ma nascosto scruterò chi vedrà, saturo di silenzio se c'è un posto Rai qua. Scorro nella corrente, trascinato con te, desiderio più intenso per placare perché, senza inizio, senza fine agli estremi, senza luce gli orizzonti mai sbiaditi. Ora ruota di colori senza freni, ora selva di contorni indefiniti, distintamente instabile. Intorno io gravito, naturalmente instabile. A volte io statico là sullo sfondo. Volontà e destino, quando si scontrano, tempo e ambizione, quando si fermano, senza inizio, senza fine agli estremi, senza luce gli orizzonti ormai sbiaditi. Ora ruota di colori senza freni, ora selva di contorni indefiniti, distintamente instabile. Intorno io gravito, naturalmente instabile. A volte io statico là sullo sfondo. Gravito, naturalmente instabile. A volte io statico là, là, là sullo sfondo. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, con questa frequenza, bene, sappiate che questa è Blue Radio Veneto, Blue Time Live, con le voci di Maurizio Calzavara, Flavio Bilato, ospite in studio qui con noi i Quarto Madera, una band di Monza composta da Davide Sar alla voce e chitarra, poi ancora Tony Centorrino batteria e Laura L ai cori. Abbiamo ascoltato un pezzo del 2009 dell'album, sì, esattamente, di Orbite. Con Sullo sfondo, tra altre cose, un album che tutti hanno criticato assolutamente molto bene, come è successo anche per questo che invece stiamo presentando, L'Impatto, e che ha visto anche la partecipazione di ospiti che hanno cominciato a collaborare con voi e ancora lo stanno facendo. Sì, sia in Orbite che nell'Impatto c'è Luca Urbani agli archi sintetici, la Luca Urbani ex Soerba 01, adesso Fluon, che è un po' il nostro collaboratore fisso per quanto riguarda la parte degli archi sintetici e di alcune tastiere aggiuntive oltre alle mie. E poi sì, si sono alternati altri ospiti, nell'ultimo ad esempio c'è Erika Zanotti al flauto, c'è Simona Pozzi ai cori, che è stata la nostra corista per un certo tempo anche nei nostri live, e quindi ci piace anche avere ovviamente degli ospiti nei nostri lavori, anche per completare un po' quello che è il nostro discorso musicale, anche perché il discorso musicale di Quarto Madera è solo chitarra e batteria quando nasce. Beh, diciamo che non c'è una regola per far nascere i nostri brani, a volte nascono semplicemente chitarra e voce come li state sentendo adesso in acustico. Altre volte nascono un po' dal lavoro della sala prove, della nostra sala prove privata, nella quale passiamo tanto tempo a provare, a elaborare, a sperimentare. E quindi in realtà non c'è una regola fissa, a volte si può partire da un riff, come si diceva prima, a volte da un giro di chitarra, a volte da uno spunto di un testo, da qualsiasi cosa. Possiamo dire che questo pezzo che abbiamo sentito adesso, che apparteneva all'album precedente, e sì, abbiamo sentito in versione acustica, ma è molto acida la tua chitarra, quindi un pop, una canzone pop tra virgolette, con una chitarra molto acida che trasforma il pop, che allontana il pop, lo rivolge verso gli anni 60-70 più che agli anni 80-90, secondo certo, me certo, sì, io sì. L'ho sentita così, chiaramente l'album è fatto in una maniera, in una struttura diversa, però versione acustica stasera dal vivo, chiaramente a questa versione, a questo modo di interpretare musicalmente, almeno secondo me, la chitarra acida ha un certo senso, cioè allontana il pop, lo rende meno pop ma meno più dura, più potente, secondo me. Ci sono un po' le nostre due facce, quella elettrica, quella acustica. Quell'acustica l'abbiamo introdotta da poco, abbiamo suonato per tanto tempo in elettrico, poi appunto, come dicevo prima, siccome molti dei nostri brani nascono in acustico, abbiamo detto anche perché non proviamo, diamo una stesura, esatto, perché non proviamo anche a proporli nella loro versione certo, più cruda, no? Più cruda, quella originale, e la cosa funziona, quindi diciamo ci piace proporci in entrambe le due facce, per ribadire che voi siete una band dal vivo, amate fortissimamente suonare. Beh, certo, dal vivo, sì, che è la cosa più importante, fondamentale. Quello, sì, come per ogni band, il discorso live è quello che gli appartiene di più. Insomma. Anche il batterista era soddisfatto, visto che quando suonava era molto soddisfatto, decisamente. Nonostante sia un po' limitato. È un po' limitato. Diciamo. Nell'angolo. È nell'angolo. Come, purtroppo tutti i batteristi sono nell'angolo qua, è proprio una questione di, sì, di abbiamo, spazio. Abbiamo solo quello come esattamente. Quindi ecco, non sentitevi in castigo, però assolutamente. Benissimo, grazie Tony. Allora, un altro pezzo da L'Impatto di Quarto Madera, ci ascoltiamo da disco, si tratta di La ballata dei pregiudizi e poi torniamo a commentarla insieme, eccola qua. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. We'll be right back. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Un altro pezzo dall'impatto, il nuovo album dei Quarto Madera si intitola La ballata dei pregiudizi. Allora, il termine pregiudizio può essere letto in molti modi, in questo testo si vede che c'è un po' il timore, la paura che gli altri, quelle che vengono definite le ombre, parlino male di te, no? della tua persona, e quindi ti senti svalutato anche nei confronti degli altri, per cui cominci a costruire un muro. Un po' alla The Wall, si può esattamente dire. Esattamente, sì, il senso è questo, ovviamente. Non è riferito alla mia persona, ma è una cosa generalizzata, a mio avviso, no? Sì. Quello di aver sempre paura di conoscere l'altro, la paura nella conoscenza del prossimo. Un pregiudizio inteso non solo come pregiudizio razziale, ma in tutti i sensi. E l'album, cioè, sia nell'album ricorre questa idea, ma soprattutto in questo brano. e praticamente è forse uno dei testi al quale sono più affezionato. Sì, e anche uno, questo con l'altro pezzo che avevamo ascoltato prima, Le cose che non trovi, sono anche stati messi non solamente in versione audio, anche in video, quindi c'è... Sì, è uno dei tre video che abbiamo fatto. Abbiamo fatto Le cose che non trovi, La ballata dei pregiudizi e poi La soluzione, che è uno dei brani che sentirete dopo anche in acustico. Come si svolge questa l'ambientazione di La ballata dei pregiudizi? Beh, c'è una parte in esterni e una invece dentro, dove suoniamo. Semplicemente è un playback un po' particolare, dove ognuno di noi fa delle cose, gesticola, è un playback un po' particolare. Poi c'è una parte in esterni dove io praticamente vado a raccogliere quelli che potrebbero essere dei potenziali pregiudizi, dei cartelli, sono dei cartelli dove vengono declamate delle frasi, ognuna delle quali rappresenta un classico pregiudizio, uno dei classici pregiudizi col quale ci scontriamo tutti i giorni. Per vederlo i nostri ascoltatori come possono fare? Su YouTube, semplicemente su YouTube, Quarzo Madera, c'è proprio il nostro canale, e lì ci sono tutti i nostri video. Benissimo, allora, visto che stiamo parlando di YouTube, di internet, vogliamo dare anche qualche indicazione per come conoscere, come avere qualche informazione in più, oltre a quella che daremo questa sera riguardo a Quarzo Madera? Siamo un po' dappertutto, quindi c'è la nostra pagina Facebook, siamo su Twitter, siamo su Google Plus, siamo su da qualsiasi parte, MySpace. Ci si può trovare, siamo su MySpace. MySpace è stato uno delle nostre prime... dei nostri primi social network, dove ci siamo messi, e anche su bluradioveneto.it e anche su ricordiamo. Musicalmente questo è un pezzo dove ci sono molti synth, caro Davide, decisamente c'è una bella, un bel richiamo tra il synth e la chitarra, una specie di coesione totale. Uh-huh. Visto che il synth e la chitarra le suoni te, quindi sì, sono responsabile io, io responsabile sia di una che dell'altra, sì. Quindi l'idea di concretizzare in questo pezzo, soprattutto questo, evidenziare di più il synth, come mai, oltre al di là del discorso che abbiamo fatto prima, dell'avere il synth maggiore, l'elettronica maggiore rispetto agli altri dischi, oppure proprio in questo pezzo doveva essere così, assolutamente? No, beh, in realtà in tutto l'album viene evidenziato un po' il synth, la parte tastiere, anche se non a discapito di quella chitarristica. A mio avviso rimane sempre la chitarra predominante in tutto, si sente che siamo comunque un gruppo di impronta prevalentemente chitarristica. Come ti dicevo, appunto. E come la gestisci un pezzo simile live, in palcoscenico? Ah, beh, noi portiamo della programmazione dal vivo, per cui noi ci esibiamo in tre. Io chitarra e voce e programmazione synth, quindi da sequencer. Capito. Quindi portiamo le basi direttamente programmate sulla tastiera, proprio sul sequencer della workstation. Poi c'è la batteria e le voci. Bel muro, allora. Sì, diciamo come che... ha detto Flavio, dal punto di vista del testo. Sì, no, riusciamo, in elettrico sviluppiamo, secondo me, un ottimo wall of sound. Ecco, come si diceva una volta, mi diceva Phil Spector un po' di anni fa. Esatto. Benissimo, allora, a proposito di wall of sound, abbiamo pronti i nostri muri per ospitare ancora un altro pezzo in acustico, tratto da L'impatto, questa volta... Ascoltiamo La scelta? Sì, questo è un brano non tanto wall of sound, sì, sia perché è in acustico, sia perché è uno dei brani magari maggior, dei brani più lenti dell'ultimo album, però è un album che in generale ci piace molto, e questo è uno dei nostri brani preferiti. Eccolo qua, allora, Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, Quarzo Madera, dall'album L'impatto, questo è La scelta. La mia identità è un animale, che si agita ma non fa male. più di te. La mia identità è un'esigenza. Guardo lacrime di esperienza. Scorrere come una scelta, osservo e ti contemplo. Mi spoglio e mostro i segni del mio tempo. Nelogico, nei logico, assorbo per cambiare. Come una scelta osservo e ti contemplo. Mi spoglio e mostro i segni del mio tempo. Nelogico, nelogico, apprendo per mutare. La mia identità non è apparenza. Io fanatico dell'evidenza. Resterò come una scelta, osservo e ti contemplo. Mi spoglio e mostro i segni del mio tempo. Nelogico, nelogico, assorbo per cambiare. Come una scelta osservo e ti contemplo. Mi spoglio e mostro i segni del mio tempo. Nelogico, nelogico, apprendo per mutare. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Altra buona dose di musica acustica. Loro sono i Quarzo Madera, sono qui a Blu Radio Veneto per la presentazione del lavoro che si intitola L'Impatto. Il pezzo che ci siamo ascoltati in versione acustica si intitola L'Asceta. Questo asceta, questa figura così particolare, spirituale, che si libera e si libera in contemplazione ed in osservazione del proprio io, e dall'alto cerca di dare un input per quelli che possono essere i cambiamenti importanti della propria esistenza, perché poi si deve scendere, diciamo, dall'alto, quindi scendere dal palo e da questa piattaforma che si è distaccata da terra, e poi ricominciare a vivere. Certo, sì, poi in realtà la scelta non è una figura poi così astratta come si pensa, è tutta esperienza, no? Sono esperienze personali che si fanno, che poi ci servono nella vita di tutti i giorni, nelle cose più concrete. Certo, la scelta che si colloca, come si colloca il feto nella vostra copertina, quindi a metà tra cielo e terra, quindi in un punto di congiunzione tra il... diciamo lo spirituale e il materiale in questo caso. Sì, un po' tutto l'album ha questa caratteristica, infatti il concetto dell'album è proprio questo, e ogni brano vuole rappresentare una fase della vita di tutti noi alla fine. È una scelta psichedelico questo qua, secondo certo. me, decisamente psichedelico, anche stasera, anche in questa versione live acustica, è una ballad, possiamo dirla una ballad, Dario, secondo sì, te? Sì, sì. Una ballad un po' sporca, ecco, possiamo dire così. Sì, sì, una ballad sporcata. È una ballad sporcata, quella è la giusta definizione al pezzo, è acustica sì, ma un acustico che dietro nasconde una certa potenzialità, chiaramente. Certo, è... questa potenzialità di cui parli probabilmente si esprime in maniera più compiuta in elettrico. Chiaramente, in elettrico. Sì, chiaramente sì. Però già stasera si vedeva l'acusticità, sì, questa è una chitarra acustica, però, cari ascoltatori, una chitarra acustica che può diventare anche nell'acusticità una chitarra elettrica. Siamo irruenti anche nell'acustica. Esattamente, esattamente. Vuol dire questo, volevo sottolineare questo. Benissimo, allora siamo in piacevole compagnia questa sera all'interno di Blue Time Live con i Quarzo Madera, questa band che è venuta a trovarci da Monza. Ricordiamo un po' anche la storia di Quarzo Madera, una band che è nata nel 2000 e nel 2003 viene stampato il primo lavoro dei Quarzo Madera che si intitola L'Unica, dopodiché 2006, altro passo importante, il primo CD vero e proprio, diciamo, Cardio e Psiche, anche lì si parla appunto di materiale, come dire, sentimentale, quindi le due cose vanno a braccetto, possiamo dirlo, e poi ancora il 2009 che vede protagonista Orbite e finalmente, diciamo, la maturità raggiunta. Sì, diciamo che Cardio Psiche, il nostro primo album, è fondamentalmente una raccolta di demo rimasterizzati. Contiene sia i brani di L'Unica, sia i tre brani di L'Unica, che era il primo EP autoprodotto, sia altri demo che abbiamo fatto e successivamente riarrangiato e rimasterizzato. Questo è stato il nostro esordio praticamente. E ovviamente Orbite è un disco più completo, più maturo rispetto a Cardio e Psiche, anche se ha delle caratteristiche diverse, nel senso che Cardio e Psiche può sembrare un disco più rock, più cattivo tra virgolette, Orbite invece è più esplorativo rispetto al primo, ma comunque credo che lo stile Quarzo Madera si manifesti in tutti e tre gli album che abbiamo fatto e ovviamente anche nell'ultimo, L'Impatto. Benissimo, salutiamo anche tutti quelli che sono gli ascoltatori che ci seguono non solamente nelle frequenze tradizionali ma anche tramite lo streaming audio di internet, e salutiamo anche gli amici che sono venuti a trovarci all'interno della nostra pagina Facebook, quindi Blu Radio Veneto Rock Wave, e quindi hanno cliccato il mi piace sulla notizia dei Quarzo Madera qui con noi in questa serata. Allora sono le 21:47 minuti primi, noi proseguiamo con l'ascolto di altri brani da questo lavoro dei Quarzo Madera. Questa volta ascoltiamo Nebula, un brano davvero particolare che poi torniamo a commentare insieme. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Nebula, mia Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato un altro pezzo di Quarzo Madera, l'album è L'Impatto, questa canzone con un titolo davvero particolare si intitola Nebula, nebula che è a metà tra un velo di protezione, un pianeta lontano o una forza, una fonte luminosa. Poi scherzando fuori dalla diretta si chiamava anche tipo, non so, la forza dell'aerosol piuttosto che della sigaretta, piuttosto tu citavi anche altre particolarità legate, sì, a Nebula. Vabbè, ognuno può giudicarlo come, sì, vuole, però diciamo che sì, un luogo, un luogo astratto, un luogo X astratto nello spazio dal quale idealmente proveniamo, quindi anche quello può essere... può essere inteso in questo senso, insomma, una nostra ipotetica origine. Un finale da cosmici tedeschi, poi Tangerine Dream, così alla larga, possiamo dire, alla larga. Non so se tu ami i cosmici tedeschi, i Tangerine Dream. Li ho ascoltati, Ken, i Ken, i Popol Vuh, Popol Vuh un po' meno, ma i Tangerine Dream sì, sono questi riferimenti, queste chitarre languide che corrono. È vero, sì. Anche la psichedelia tedesca ha avuto una sua importanza negli anni 70, molto ripetitiva, ipnotica... Anche quello ci piace, insomma. Bene, fa tutto parte del bagaglio, chiaramente. Benissimo, visto che abbiamo citato altri artisti, continuiamo a farlo, sentendo un po', scoprendo quelli che sono i gusti musicali, ma anche quelle che sono state, diciamo, delle testimonianze musicali a cui voi siete legati nel vostro modo di fare musica. Quindi citando tre artisti abbinati a tre album, quali potrebbero venire in mente? Cominciamo con Davide, poi andiamo con Tony e Laura. Intanto Tony e Laura, preparatevi. ma quello, il bello è proprio così. Il bello, sì, della in effetti è la domanda più difficile in assoluto che potevi sì, farci. Sì, cioè, sì, abbiamo parlato di tutto, di filosofia, di cosmo, però questa è la domanda più, perché, sai, più particolare. Di fronte a questa domanda vengono fuori, sia per noi che per i nostri ascoltatori, sempre dei motivi nuovi per ascoltare musica nuova. Quindi molte volte magari l'artista non lo sa, ma un nome nuovo, un artista a lui conosciutissimo ma per gli altri sconosciuto può venire fuori, e ma, quindi sai, il discorso è che io personalmente ho ascoltato talmente tanta di quella musica che è veramente difficile. Io ascolto praticamente tutto, credo di ascoltare tutto, quindi fare dei nomi è molto molto difficile, anche per un fatto informativo, un fatto di cultura personale. Probabilmente anche in quello che facciamo si sentono tante cose, immagino si sentano tante cose. Potrei citarti, non so, David Bowie, periodo Spiders from Mars, Aladdin Space Oddity. Quel periodo lì, c'è un periodo 70-74, da 69-74 da Space Oddity fino a Diamond Dogs. Quello è il mio periodo preferito di Bowie. C'è un motivo, però lo hai citato, me hai detto prima in diretta, fuori della diretta, c'è un motivo, c'è un chitarrista che ami particolarmente. Ah sì, Mick Ronson, Mick Ronson è uno dei miei chitarristi preferiti, certo. E poi posso citarti ovviamente Pink Floyd con The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, tante cose potrei citare. Diciamo che per quanto riguarda i solisti, cioè artisti solisti, Bowie e Gabriel sono sono le mie icone personalmente. Per quanto riguarda le band invece tante, Pink Floyd, Doors, tutto ciò che alla fine, tutto ciò che anni, fine anni 60, tutto ciò che va dal 60 fino alla fine degli anni 70, gli U. Gli U, un altro gruppo che mi ha sempre interessato, e quindi sono tantissime. Benissimo, allora adesso se qualcuno allunga il microfono al batterista, a Tony. Non vuoi rispondere, Tony? Tony passa. Passa la palla a Laura. Laura, fai bella figura almeno tu, dai. Mi scaldo la voce di sì? nuovo. Beh, in realtà io non posso parlare di contributi perché non ho dato fino ad ora contributo, sono l'ultima arrivata nel gruppo, quindi sicuramente non ho portato quelle che possono essere così delle caratteristiche musicali. Però devo essere sincera, ho provato in questo primo periodo in cui sono entrata nel gruppo a descrivere a qualcun altro che cosa facesse questo gruppo, appunto per chi non li conosceva, e sono molto felice di dire che non ce l'ho fatta ad associare Quarzo Madera a nessun altro gruppo, e questo mi ha fatto piacere, nel senso che spesso è facile copiare ad associare ad un gruppo già esistente, quindi questo secondo me fa un po' perdere quella che è l'identità del gruppo. Quindi mi piace dire che in realtà non c'è nessuno che associo in maniera così forte ai Quarzo Madera, e da un lato ne vado orgogliosa, nel senso mi fa molto piacere. Benissimo, allora abbiamo sentito anche la presa di posizione di Laura nei confronti più decisa rispetto alla mia della musica, assolutamente, mentre rimaniamo sempre nel mistero di conoscere i pensieri di Tony Centordino, che vabbè. Un altro pezzo dal vivo, questa volta torniamo indietro nel tempo, quindi ancora il 2009, ancora Orbite. Sì. Benissimo, allora cosa ci fa ascoltare, Davide? Ci facciamo Eternamente, che è uno dei brani, anche questi, che ci piacciono di questo secondo nostro lavoro. Esiste, non sarà ora, è come il gioco di un altro gioco, un'alternanza, un'esigenza. Rottura, punto di un avvio verso un orizzonte più chiaro ora. Mi ricompongo e non confondo, e ti sostengo, è il nostro mondo. Aspettano argini più grandi che ti accolgono. Mi ricompongo e non confondo, e ti sostengo, è il nostro mondo. Invertire richiamare, riscoprire. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ecco qua un altro pezzo che abbiamo ascoltato di Quarzo Madera, si intitola Eternamente, l'abbiamo ascoltato in live acustico, un brano che risale al 2009 quando c'era Orbite a fare, diciamo, il padrone di casa, e questo pezzo è uno dei più sentiti, a quanto ho capito, proprio sentiti dentro del pezzo, un pezzo che potrebbe anche far parte dell'impatto, oppure potrebbe essere tipo un ingranaggio per la costruzione dell'impatto. Sì, il ritornello dice adora il tuo risveglio eternamente, quindi come non apprezzare. Cioè, personalmente apprezzo molto questa frase, adorare il proprio risveglio, sia inteso come risveglio dal sonno, ma anche come risveglio dell'anima, anzi principalmente risveglio dell'anima, no? Cioè quei momenti in cui ci si sente veramente completi, no? E quindi è una frase positiva che ci piace ripetere di frequente. Meno nella versione che avete dato qua stasera, questo pezzo aveva un momento di stasi, un momento in cui Tony si dava da fare, enormemente si dava da fare, pulsava, cioè batteva. Chiaramente la batteria stasera è ridotta, ma ci dava una certa propulsione alle cose, dava un certo impatto. Eternamente di solito si immagina un pezzo abbastanza quieto, eternamente, ma non è proprio così. Beh, diciamo che ha dei chiari oscuri. Sì, ha diverse dinamiche, anche perché poi alla fine è bello dichiarare con energia, no? Questo risveglio di cui si parlava prima, no? E poi l'entrata della voce di Laura che dà un certo peso alle cose. Esatto, che cambia dinamica rispetto al brano, e quindi l'abbiamo concepito così apposta nell'acustico, ma anche dal vivo, e anche nell'elettrico è simile. Sì. Benissimo. I testi, Davide, dove nascono principalmente? Ti chiudi, diciamo, in qualche ambiente, preferisci l'ambiente aperto? Cioè, come ti senti protagonista delle tue canzoni attraverso lo scritto? Beh, guarda, non c'è una regola precisa, fondamentalmente nascono proprio in camera, cioè chiuso dentro me stesso. Però non è detto, può anche darsi che mi venga un'ispirazione in giro osservando molto, cioè io nel mio piccolo cerco di osservare il più possibile. Quindi, situazioni, sì. Persone, comportamenti, e da questo nasce l'ispirazione. Anche se l'impatto è, come dire, un punto di osservazione, come si ricordava prima, della scelta, un punto di osservazione da dentro per affrontare le cose poi fuori, quindi un qualcosa di molto intimo. Sì, sì, nascono comunque in intimità, certo, i testi non sono nelle situazioni più spensierate che nascono da uno stato di raccoglimento fondamentalmente, che poi raccoglimento poi anche non è solamente isolamento, può essere un raccoglimento solitario, come ci si può raccogliere anche in mezzo alle persone, tra le persone, tra la gente, insomma. Certo, anche in autobus molte esattamente, volte. Sì, esattamente. Trova, nonostante tutto, si trova l'ispirazione un po' dappertutto. C'è qualcuno che riesce ad essere ispirato anche in quei luoghi, diciamo, dove... Anzi, soprattutto, cioè, sì, osservare il comportamento delle persone, anche quelli più bizzarri, può essere fonte di ispirazione. Ma li crei, Davide, con un riff di chitarra, poi la fai sentire a Tony, il discorso, il cambiamento, cioè l'armonizzazione del pezzo, l'arrangiamento, fra te e Tony c'è un accordo totale. Fondamentalmente, nella maggior parte dei casi io porto già lo scheletro del brano, porto già il brano con chitarra, voce e una bozza, è una di bozza. È una bozza di testo, poi lavoriamo insieme in saletta. Successivamente magari sistemo il testo, anzi quasi sempre sistemo il testo strada facendo, perché la prima stesura del testo non è mai quella più soddisfacente. Però non solo, a volte capita anche che magari ci troviamo in saletta e diciamo: ma perché non buttiamo giù delle idee senza avere qualcosa di base? E lì magari parto con un riff o parte Tony con un giro di batteria particolare, e possono nascere anche così i brani. Decisamente. Continuiamo a dire che chiediamo anche l'intervento di Tony su certe ma certe Tony situazioni. È sempre distante. Tony è troppo distante. È distante in tutti i sensi. Cioè, è proprio distante in tutti i sensi. Adesso sta dicendo anche che il microfono non arriva. Trova tutte le scuse. Vabbè, comunque, se vuoi intervenire, Tony, basta urlare. Hai ancora un 20 minuti, se vuoi, di tempo. Vabbè, allora posso dire che a Tony piacciono molto i Porcupine 3, giusto? Ah, bene. Fa una bella cosa. Questa è la prima informazione ufficiale. Sì, sì, sì. Che poi, ecco, difatti, anche se non si devono fare riferimenti, ma c'era un inizio del pezzo che mi ricordava un esperimento live di Porcupine Tree, quello dell'ultimo lavoro, per cui credo che sia proprio per questa batteria continuamente battuta che i Porcupine Tree siano entrati tra i preferiti di Tony, vero? Bene, si conferma. Ha confermato. Sì. Fa dei cenni, quindi, quindi esiste. Ecco, allora, un altro pezzo dell'album L'Impatto, questa volta ci ascoltiamo L'Incanto, Incanto. Sì, sì, sì. E poi torniamo qui a commentarlo insieme, qui a Blu Radio Veneto. Blu Time Live. Nuda trasparenza. io sarò voce. E sarò qui mentre ti riveli, tu sarai luce. E sarai qui mentre mi rivelo, io sarò voce. Sarebbe incanto ciò che avrei, ascoltando rimani, e come fede brucerei più distanze da te. Sarebbe incanto ciò che avrei, ascoltando rimani, e come febbre brucerai più distanze da te. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Quarzo Madera dall'album L'Impatto, la loro ultima produzione, con questo pezzo che si intitola Incanto, l'incanto che si rivela in quel sottile ma resistente filo che lega l'anima al corpo, dove la trasparenza si accoppia con l'essenza e la dissolvenza è anche un po' evidenza. Un testo molto spirituale, oserei dire, Davide. Sì, è un testo che parla di... Di conoscenza, di un approccio, no? Può essere un approccio amoroso, come così come una semplice conoscenza tra due persone. L'incanto nel saper ascoltare e capire un'altra persona, nel sapere e desiderare ascoltare un'altra persona. Anche l'incanto musicalmente, anche questo era un bel pezzo, e la critica ha scritto che sei molto finardiano, e qua bisogna dire che sei finardiano, nell'impatto vocale c'è niente di male assolutamente, però assolutamente no, anzi, in qualche momento sicuramente Finardi ti ha dato un'ispirazione così alla lunga, chiaramente alla lontana, ma solo una lontana, per averlo sentito probabilmente inconsciamente tutta sì, beh, molte cose sono inconsce ovviamente. Chiaro. Quando, appunto, come ti dicevo prima, quando si ascolta tanta musica è ovvio che molte cose ti rimangono, soprattutto più che le parti musicali vere e proprie, i suoni, la vocalità, l'approccio di determinati artisti alla propria musica. Certo. E quindi inevitabilmente qualcosa ti rimane, ma qualcosa sì. Può anche essere assolutamente sì, casuale. Esattamente. Non bisogna sempre pensare che ci sia un input che sì. ti faccia scattare poi la similitudine sì, con l'altro sì. personaggio. Rimane ciò che assomiglia, nel senso che esatto. tu sei ascoltato mille modi di fare musica, però poi naturalmente sei più legato a certi momenti, per cui questi vengono fuori. È probabile, questo, sì, proprio questo così. È inconsciamente, inconsciamente è probabile, sì. Ecco, se non ci fossero i critici tipo Maurizio, no, no, questa cosa. Davide, mi sono ricordato una cosa, inconsciamente sì. Anche George Harrison ha detto, ho scritto My Sweet Lord, ma inconsciamente aveva non è il tuo caso, si si Fine di un gruppo degli anni 60, inconsciamente che lui, cioè un certo milione di stelline ha dovuto pagare inconsciamente, ma questo è un altro par di maniche, chiaramente, per George Harrison. Certo. Ma, al di là di questo, della battuta, può capitare nel senso positivo del termine. Sì, a dire la verità non c'è gente che lo fa sistematicamente. E c'è gente che lo fa sistematicamente. Questo mi dà molto fastidio. Mm. Io non ho mai, e credo che non lo farò mai, io ho composto un brano pensando a un altro brano. Cerco di isolarmi a tal punto da pensare di essere l'unico in quel momento a fare musica. Arrivo a questo paradosso. E questo, no? È bello così. A questo paradosso, cioè proprio non voglio, a volte proprio non voglio sentire musica, nonostante l'ami profondamente. Certo. Non voglio sentire musica per non farmi influenzare, cioè io arrivo addirittura a questo paradosso. Ma c'è chi, giustamente, ripetiamo, lo fa di proposito, ecco, questo e piace. Ce ne sono molti che lo fanno di proposito, poi molti le spacciano per citazioni, esattamente, cioè, questa è una citazione, non è un plagio, e lì nascono tutti i malintesi, gli equivoci, eccetera eccetera. C'è gente molto conosciuta, ma non diciamo chi, assolutamente non diciamo chi, certo. Quindi per la costruzione del brano c'è bisogno di silenzio dentro e di silenzio fuori, in questo caso sì. È una cosa, beh, poi il silenzio lo si può anche cercare, anche se non c'è fisicamente il silenzio, magari c'è una situazione caotica, ma uno ricerca il silenzio dentro se stesso fino al punto di isolarsi, e l'ispirazione viene comunque. Benissimo, a proposito di ispirazione, vi sentite ispirati per un altro pezzo? Sì, sì, certo. Anzi, facciamo due, visto che c'è il tempo. Va bene. Allora, un altro pezzo dall'album L'Impatto, questa volta ascoltiamo Soluzione, La Soluzione. La Soluzione, sì, che è l'ultimo brano dell'ultimo album, sì. Benissimo, ecco qua, microfono aperto pure alla chitarra, e quindi via con La Soluzione, Quarzo Madera, qui a Blu Radio Veneto. Spazi ristretti gridano forte, curvi e respiri, ma forse non basta riprendere il filo, è ormai quotidiano perderlo ancora. È cosa da poco, assoluzione per le sfide perse, la soluzione è assolversi, assoluzione per le sfide perse, la soluzione è assolversi. Sui muri ti parlano piano, buoni o malvagi, non lo capirai. Capire star bene se non ti fa male, la ricerca assurda di una verità, assoluzione per le sfide perse, la soluzione è assolversi. Assoluzione per le sfide perse. La soluzione è assolversi. Fare di stare così necessario, che ciò che reprimi rinasce. Un prendere atto così facilmente, che ciò che reprimi vanisce. Assoluzione per le sfide perse. La soluzione è assolversi. Assoluzione per le sfide perse. La soluzione è assolversi. Assolversi. Assolversi. La soluzione, il pezzo che abbiamo ascoltato in diretta qui all'interno di Blue Time Live. Loro sono i Quarzo Madera, L'Impatto, il titolo del loro nuovo lavoro. Allora, in questo pezzo si sviluppa un gioco molto sottile, si parla di soluzione che come sempre si trova alla fine anche del testo in questa situazione, e poi di assoluzione, quindi un perdono con un riscatto ed un continuo evolversi e assolversi nello stesso momento. E il tutto inizia con una voce interna, quindi molto molto cupa, di uno sfogo che poi viene dato verso la fine con un grido di liberazione. Davide. Sì, è un gioco di parole, fondamentalmente la soluzione è la soluzione, cioè perdonarsi fondamentalmente, no? Ci sono varie situazioni nella vita in cui magari uno si colpeva, si fa delle colpe, no? Si ha dei sensi di colpa, e il senso del brano è assolutamente questo. Guarda caso l'abbiamo messo anche alla fine dell'album, no? Come un ideale percorso, nel senso, ogni brano rappresenta un determinato stato della nostra vita, e alla fine la cosa più giusta è assolversi. Dal punto di vista musicale è un pezzo molto bello, a me è piaciuto particolarmente, e secondo me adesso conio un'etichetta, un decadente ipnotico. È una decadente, sì, ma molto ipnotico, soprattutto la parte finale. Tu entri continuamente entri nel circolo, nell'idea dell'ascoltatore, dando determinati input, ipnotizzando secondo me l'ascoltatore. Non so, io l'ho sentita così. Sì, anche per valorizzare di più il testo, fondamentalmente. Se scandire più il testo. Sì, se il brano avesse avuto troppi cambi di ritmo, troppi cambi armonici, melodici, secondo me sarebbe stata meno focalizzata l'attenzione sul testo. Invece così, avendo appunto questo come dicevi tu, questo andamento ipnotico, c'è la possibilità di concentrarsi maggiormente sulle parole, che alla fine è quello che desideriamo, che desidero di più. Insomma. Anche noi ci siamo concentrati bene in questo pezzo. Grazie. Benissimo, allora Davide, un'ultima domanda. Abbiamo 10 pezzi all'interno dell'impatto, di cui uno strumentale. Mm-hmm. Come mai l'inserimento di un pezzo strumentale con tante cose da dire? L'avevamo fatto anche nell'album precedente. In Raga del Risveglio, che è il pezzo di chiusura dell'album precedente, è un lungo strumentale vagamente orientale come andamento, come armonie. Questa volta invece Piccoli scheletri nell'armadio è più piccolo, nel senso è più breve come brano, è più considerabile come un intermezzo, nel senso che a un certo punto dell'album, per calare un po' la tensione, abbiamo deciso di fare questo breve strumentale, che però ha un'intensità che è pari, se non uguale, a quella dello strumentale dell'album precedente. Ci piace fare ogni tanto dei brani strumentali, certo. Benissimo, dove si dà la possibilità all'ascoltatore di tirare fuori il proprio io, quello che è stato risultato, proprio la soluzione di tutto l'impatto in questo certo, caso. Certo. Bene, allora noi ringraziamo i Quarzo Madera per essere stati con noi qui in diretta, per averci fatto ascoltare le loro canzoni, dicendo complimenti, l'impatto ha fatto veramente un ottimo impatto, perlomeno su di noi, altrettanto crediamo sui nostri ascoltatori fedelissimi. Allora, prima di lasciarci, Davide, ancora due parole legate al passato. L'abbiamo ricordato prima, era il 2006 e usciva Cardio e Psiche. Uh-huh. E da questa Cardio e Psiche poi al finale andremo ad ascoltarci Inverno. Cardio e Psiche, come si ricordava prima, era una raccolta, diciamo, di pezzi, di cui anche dal demo del 2003. Sì, dell'EP sì. Precedente autoprodotto del 2003. Sono tre brani di quell'EP più altri 7 demo rimasterizzati. Benissimo, un breve cappello per quel che riguarda Inverno. Beh, Inverno è proprio, cioè la caratteristica principale di Inverno è che è il primo brano scritto dai Quarzo Madera. Ecco, vedi. Quindi è il primo brano in assoluto. Il ritornello recita passa l'inverno prima o poi, no? Nel senso, molto spesso ci si fanno dei problemi, però e si dà una certa importanza ci diamo una certa importanza a questi problemi, però c'è sempre qualcuno che ci dice: ma no, lascia perdere, sono cose a cui non dare l'importanza che tu dici. E questo passa l'inverno prima o poi è una frase ricorrente che sento spesso dire a chi magari mi dice: no, guarda, ti stai facendo troppo problemi per quella situazione. Sì, sì, sì. O per l'altra. E quindi è anche un po' ironico, se vogliamo, Inverno. Tanto è vero che il video stesso, che è il primo video che abbiamo fatto come Quarzo Madera per questo brano Inverno, è ironico. Nel senso, è per chi lo vorrà vedere su internet, un video fatto con i pupazzi, una storia di pupazzi fondamentalmente, anche lì vagamente acide e psichedelica. E che rispetta un po' l'ironia che si è voluto dare al testo di questo brano. Benissimo, allora torniamo a ringraziare il Quarzo Madera di essere stati con noi. Ringraziamo Davide Sar, Tony Centorrino, ancora Laura L per essere stati con noi. Quindi Quarzo Madera, noi vi lasciamo i microfoni aperti per questo ultimo pezzo e vi salutiamo. E quindi grazie, buon ritorno. Grazie alla vostra, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. E quindi tornate presto, mi raccomando. Esattamente. Non vi ho chiesto, c'è un album prossimo Venturo? Beh, diciamo che ci sono delle idee in cantiere, però realizzare un album, soprattutto in campo indipendente, eccetera, comporta varie problematiche. anche quelle economiche, tra parentesi. Ne abbiamo sentite diverse di queste. Comporta varie problematiche, sì. Quindi non è solamente un discorso artistico. Certo. Ovviamente se fosse solo per questo fatto faremmo un album ogni sei mesi. Non sarebbe quello. Però bisogna pianificare diverse cose. Quindi speriamo di tornare il più presto possibile con un nuovo album, certo. Benissimo, grazie ancora grazie Quarto a voi, Matera. Grazie. Allora, noi abbiamo terminato Blue Time Live, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande caloroso ciao, buon ascolto con l'ultimo pezzo di Quarto Matera, si intitola Inverno, e non dimenticate L'Impatto, il nuovo lavoro di Quarto Matera. Dopo questo spazio acustico, la linea passerà ad Alberto e Prisco per Rock Wave e la classifica fino alle 24 con Blu Radio Veneto. Grazie ancora, ciao, buonanotte. Dentro i miei confini, dove non c'è più posto, non c'è più spazio, e scorrono le immagini. Se tengo gli occhi chiusi, si ferma il tempo. Se mi rinnovo e mi tormento, è per un nuovo cambiamento. E se ancora non mi sento, ti guardo fisso e mi difendo. Passa l'inverno prima o poi, passa l'inverno mi dirai, passa l'inverno prima o poi, passa l'inverno mi dirai. Dentro i miei limiti mi muovo sempre lento, sempre più lento, non posso più pentirmi. Mi prendo la mia vita in un momento. Se mi rinnovo e mi tormento, è per un nuovo cambiamento. E se ancora non mi sento, ti guardo fisso e mi difendo. Passa l'inverno prima o poi, passa l'inverno mi dirai, passa l'inverno prima o poi, passa l'inverno mi dirai. È per un nuovo cambiamento. E se ancora non mi sento, ti guardo fisso e mi difendo. Passa l'inverno prima o poi, passa l'inverno mi dirai, passa l'inverno prima o poi, passa l'inverno